precipito come pioggia. Io mi godo il volo mentre precipito come pioggia. Bro, precipito come pioggia. Precipito come pioggia. Io mi godo il volo mentre precipito come pioggia, bro. Leone da tastiera, abbassa la criniera, che sopra quella sedia non vivi la vita vera. Vorrei vederti strada ad affrontare il tuo destino, ma stai troppo bene in casa appoggiata al tuo paparino. Leone da poltrona, butta via la tua corona, che il valore di ogni persona non lo compri con la parola. Vorrei vederti vivere una vita da precario, farti fare lo schiavo 12 ore senza un salario. È un giro di magna magna, circondati da roba subdola, la gente che prima si lagna e poi rimane a guardare stupida, immersa nei loro errori, abituata a rifare gli errori, opprimendo chi cerca di fare da solo per non chiedere favori. I favori li fate da soli, non impari se poi non ci provi, ti ritrovi lì fuori mutando a cercare lo stronzo che dai pantaloni. Vogliono fare porci comodi sulle spalle degli altri, se potessi vi ucciderei solo a colpi di quattro quarti. Siete peggio degli infatti, ve ne uscite all'improvviso. Esiste un girone all'inferno per voi, altro che paradiso. Col viso da brave persone, gravate la 24 ore, col sangue tra le visa di chi li visa vi do nel suo onore. Immersi nei social che ci escono dappertutto, ma abbiamo ancora problemi a capirci. L'uomo è rimasto un ottuso, rimasti al medioevo con la testa ghigliottiniamo, la bruciamo a rogo, verità perché tutto è una favola. Leone da tastiera, abbassa la criniera, che sopra quella sedia non vivi la vita vera. Vorrei vederti strada ad affrontare il tuo destino, ma stai troppo bene in casa appoggiata al tuo paparino. Leone da poltrona, butta via la tua corona, che il valore di ogni persona non lo compri con la parola. Vorrei vederti vivere una vita da precario, farti fare lo schiavo 12 ore senza un salario. E siamo qua come zombie, queste zombie tam con il collare al collo come cani, bau bau, mentre ci mirano il cervello e dopo po po chiudono il sipario, applausi fine dello show. Tutti siamo pedine guidate da chi viene dall'alto, basta una distrazione, un errore e scacco matto. Mi butto giù da un palazzo con il mio cane pazzo, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, cazzo. Viviamo solo di parole, fredde congetture, con le sole griffate calpestiamo l'ultimo barlume di lume della ragione. Non ce n'è rimasto così tanto, come in processione cammini troppo e ti senti stanco. Sopra la banca lo stato campa, e sotto chi crepa lavora arranca, sotto la mafia, sotto la casta, sotto la terra e dentro una baracca. Serve se non gli basta, a che serve se non ci passa? La sindrome dello schiavo produce, consuma, muore e trapassa. Leone da tastiera, abbassa la criniera, che sopra quella sedia non vivi la vita vera. Vorrei vederti strada ad affrontare il tuo destino, ma stai troppo bene in casa appoggiata al tuo paparino. Leone da poltrona, butta via la tua corona, che il valore di ogni persona non lo compri con la parola. Vorrei vederti vivere una vita da precario, farti fare lo schiavo 12 ore senza un salario. Fammi vedere un po' quanto vale invece di dire cazzate, spacci il lavoro degli altri per il tuo, ma sei un infame. Che ne pensate di andarvene tutti un po' caffanculo e di cavarvela da soli senza chiedere niente a nessuno? Andate su YouTube e cercatevi un bel tutorial su come campare senza fare figli di troia, che ancora state a rompere gli altri con ste menate. Siete neonati ancora ciucciate dal seno di vostra madre, tagliate sto cordone ombelicale, uscite fuori da quel buco genitale. Inutile che vi incazzate, fate i finti duri e non sapete recitare. Sta generazione è messa troppo male, troppo grave, ancora sporchi di latte, ti parlano già di fica, a bugie nessuno li batte, ci penserà questa vita. Questo è un appello da fare ai genitori, prima di fare un figlio evitate di essere voi i primi coglioni. Leone da tastiera, abbassa la criniera, che sopra quella sedia non vivi la vita vera. Vorrei vederti strada ad affrontare il tuo destino, ma stai troppo bene in casa appoggiata al tuo paparino. Leone da poltrona, butta via la tua corona, che il valore di ogni persona non lo compri con la parola.